Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. 9 dicembre 1948. Il mondo è uscito solo da pochi anni dalla Seconda Guerra Mondiale, quando Eleanor Roosevelt, moglie dell'ex presidente americano Franklin Delano, annuncia l'imminente varo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Questa dichiarazione può diventare la Magna Carta di tutti gli uomini su questo pianeta, dice la Roosevelt. Il giorno dopo, il documento che porrà le basi della legislazione internazionale in materia viene adottato e proclamato dall'Assemblea Generale dell'ONU. È il primo testo a riconoscere l'universalità dei diritti inalienabili dell'uomo, rappresenta un vero e proprio contratto tra i governi del mondo e i loro cittadini, un contratto che va rispettato a qualsiasi latitudine e in qualsiasi democrazia. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza, recita così il primo articolo della dichiarazione. Un testo che è anche il punto cardinale nell'azione del commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa, lo svedese Thomas Hammarberg. It's first the best and the earliest. Si tratta della migliore, nonché della prima definizione di ciò che sono i diritti umani. Per me è importante che includa anche i diritti sociali che sono stati negati da alcuni governi, in particolare da quello americano. L'impatto e l'importanza di questa dichiarazione è stato enorme, soprattutto grazie alla risposta giunta dalle persone comuni. È questa risposta che ha dato legittimità alla dichiarazione, divenuta negli anni la base di trattati e convenzioni internazionali. The declaration is now the basis for a number of legally binding treaties. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore.